Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La signora per l'ennesima volta si espresse. Questo marrone è troppo chiaro, ma questo è troppo scuro. Diceva sempre la stessa cosa. Non le andava mai bene niente. E anche se le differenze erano minime, una variante era troppo e l'altra era troppo poco. In silenzio fino a quel momento, mio padre esplose come una bomba. Signora, Leac Pias Calmaron, Clan Mes ai Dumaron. Mi chiamo Enzo Formizzi, abito a Mantova, ho 55 anni, sono sposato e ho 4 figli, un maschio e 3 femmine. Come ho già fatto per il francese, chiedo scusa anticipatamente per il dialetto e chiederò magari a Enzo poi di darmi la pronuncia esatta di questa frase che ha pronunciato suo padre e che è un po' il cardine di tutto il suo racconto. Credo che sia dialetto mantovano a questo punto, comunque lombardo, quella zona lì tra Lombardia ed Emilia che è un po' indistinta e un po' si perde in quelle nebbie. Tra l'altro, a proposito di località e di zone che si perdono, io ormai passo ore come lobotomizzato a fissare questa mappa che abbiamo creato e che in realtà Valeria del web ha creato e che ringraziamo per il suo lavoro, in cui ci sono tutte le storie che abbiamo raccontato fino ad oggi, dove caricheremo tutte le altre. Andate a vederla se avete il computer davanti, ha qualcosa di ipnotico. Voi siete qui, la pagina sul sito di Radio 24, e poi cliccate su quel, ve lo dico subito, sul logo di Voi siete qui, dove c'è il puntino rosso disegnato, cliccate sopra e vi appare che è una mappa di Google Map, in realtà non è nient'altro, però ha dei puntini blu. Avete presente la goccia di Google Map al contrario, no? Che indica il Voi siete qui, in sostanza, ed è piena di queste storie. Ci sono tutti: Dario, Luigi, Graziella, Leonardo, Eros, Angelo, Paola, Linda, Antonio, Tania, Fabio, e sono più o meno nord, io mi aspetto un po' più di storie dal sud, dal centro sud, dal centro centro sud, dal sud, sud est, sud ovest. 349-238-6666, siamo in diretta anche oggi, sono le 16.09, questa è Radio 24, e oggi si parla della storia di Enzo, anzi della storia del papà di Enzo, che parla di mestieri, parla di quei mestieri che in qualche modo forgiano il modo in cui siamo fatti, e quindi questa è la cosa sulla quale ci interrogavamo quando abbiamo letto questa puntata, questo racconto, e quando abbiamo immaginato questa puntata, è quanto il mestiere che facciamo fa sì che noi siamo fatti in un modo. C'è una parte chiaramente di noi che sceglie quando può il lavoro che fa, e in quel caso cerca un lavoro che si assomiglia. Quando però invece il lavoro ce lo prendiamo e basta, senza andare a cercarlo troppo per come siamo fatti e per come vorremmo essere, allora, accade un po' il contrario, no? Che il lavoro fa sì che noi diventiamo un po' più simili a lui. Se vi è successo e avete voglia di raccontare qual è quella qualità che il vostro lavoro vi ha insegnato, 349-238-6666, ma anche Voi siete qui, @radio24.it. Vi faccio un esempio veloce. Allora, Christian mi dice: il mio lavoro, la qualità che il mio lavoro mi ha insegnato è la pazienza. Simone: attenzione ai dettagli, che non tutti capiscono, e che non tutti capiscono una pianta. Una pianta, immagino una pianta in scala, non una pianta, insomma, non farà il fioraio e sarà stato bocciato ai 3 giorni del militare anche lui. Francesca: la pignoleria, una bozza non è mai stata letta abbastanza, evidentemente corregge bozze. Raffaele: di buono sono uno specialista sui dolori fisici della terza età, ormai mi butto anche su probabili cure, consigli e prevenzioni, mi manca solo una parcella da incassare per essere un vero medico, sono un commerciante di prodotti alimentari. Cioè, non ho capito, Raffaele, cosa ti ha insegnato. Ti ha insegnato ad essere uno specialista sul dolore della terza età. Forse questo ci vuole dire. Gabriella: sono educatrice in un centro per ragazzi disabili. La capacità di credere nel cambiamento, la pazienza di lavorare per raggiungerlo e la gioia delle piccole cose. 349-238-6666. Vi ricordo che oggi si parla di questo. Si parla di come il lavoro che fate vi ha insegnato qualcosa. Luca: il mio lavoro mi sta insegnando a guardare, a osservare sempre di più tutto quello che mi sta intorno, per arrivare ad esprimerlo su una tela. Quando vedo un bel cielo, lo immagino già su un quadro. Luca fa il pittore, mi ricordo, perché ho visto dei suoi quadri. Federica: a me ha insegnato a non avere paura di dire quello che penso. Beh, però non ci dici che cosa fai. 349-238-6666. Per quelli di voi che sono in giro lunedì prossimo, che sono dalle parti di Verona e che magari invece commerciano in vino, o semplicemente sono degli alcolizzati in erba e frequenteranno il Vinitaly, noi siamo là, padiglione 3, stand C3, ospiti del stand del Ferrari. Guarda, Bonini va a cercare per vedere se è tutto giusto e per una volta ho azzeccato. Padiglione 3, stand C3. Hanno tra l'altro beccato il conduttore giusto per mandare a Vinitaly. Essendo a Stemmio, è chiaro che comincerò il programma in un modo e lo finirò in un altro. Potrebbe essere un esperimento, no? Che effetto fa il vino in 45 minuti su uno che non beve? Cominciamo alle 16 e vediamo come sto. Finiamo alle 16.45 e vediamo se ce la facciamo a finirla la puntata. Ma oggi si parla di un'altra cosa, si parla proprio del vostro mestiere, di come in qualche modo vi ha insegnato qualcosa, del modo in cui magari siete cambiati per quello che state facendo. Che so io, che se fate il fruttivendolo... Arca, ho scelto proprio quello sbagliato. Il fruttivendolo cosa può aver insegnato? Avere a che fare con la gente, però avere a che fare con la gente è troppo facile. Cioè qualcuno ha scritto ad essere paziente, però anche quello no, è troppo facile. Stefano, il mio lavoro mi ha insegnato a parlare bene inglese e francese e ne sono soddisfatto. Ecco, così, facile. 349-238-6666. Questa è la storia di Enzo, questa è la storia del papà di Enzo. Era una giornata afosa, di quelle calde, che davano inizio a tutto un rituale estivo ormai consolidato. Mi sembra ancora di vederlo, mio padre. Canottiera bianca su pantaloncini corti color khaki e poi quella chicca dei calzini corti che spuntavano dalle scarpe. Le scarpe venivano annodate appena comprate e per il resto della loro vita sarebbero state calzate con l'osso, il calzascarpe, strumento proibito a noi bambini. Ma si sa, sono i piccoli privilegi del capofamiglia, consolidati nel tempo ed entrati ufficialmente nel quotidiano, una norma non scritta. Appena entrato in bottega, mia mamma lo seguiva come un chierichetto seguiva il celebrante, lasciando al suo posto l'asciugamano per il sudore e l'ampolla dell'acqua, anzi acqua e limone, con ghiaccio, per la liturgia pomeridiana. Ironia della sorte, la brocca da litro e mezzo assomigliava come una goccia d'acqua alla sua sorella minore, quella usata dal prete in chiesa. Per me mio padre è sempre stato una figura di riferimento e una figura importante, anche perché abbiamo una coscienza di famiglia di vecchia data. Il nostro è un piccolo borgo e ci sono quelle poche famiglie all'interno e noi facciamo parte di una di queste famiglie che non so, è dal 1700 che siamo lì. C'è un attaccamento al nome, alla figura. Lui, mio padre, era lì, nella sua sala macchine, regno indiscusso di cui era particolarmente geloso. Io ero nella stanza a fianco. Stavo aspettando una cliente che sarebbe venuta col marito per visionare il procedimento dei lavori e scegliere il colore delle imposte. Ero io ad occuparmi dei rapporti con i clienti. Mio padre non aveva quel talento. Lui era fatto per lavorare in legno. I due arrivarono e io feci due chiacchiere per rompere il ghiaccio. Poi parlammo a lungo. Era una cliente indecisa, come capita spesso, di quelle che faticano a scegliere e tendono a ritornare spesso sulle opzioni già scartate. Mio padre stava di là a lavorare e me lo immaginavo a fremere per tutto quel tempo che lui considerava perso, perché per lui il lavoro era fare, il resto erano solo chiacchiere inutili. Si inserì silenzioso ad ascoltare i vari passaggi e a visionare i vari esempi colore che le avevo presentato. La signora per l'ennesima volta si espresse: questo marrone è troppo chiaro, ma questo è troppo scuro. E diceva sempre la stessa cosa. Non le andava mai bene niente, anche se le differenze erano minime. Una variante era troppo e l'altra era troppo poco. In silenzio fino a quel momento, mio padre a un certo punto esplose come una bomba. Signora, le ac piasca al marron, clem mesa i du marron. Finché ci sei tu a capo della bottega, io cercherò di sostenerti, però non ti contrario più. Un domani, quando tu deciderai di mollare e che lavorerai da me, cercherò di fare come la penso io. E da quel momento dopo siamo andati bene, non ci sono più stati grossi conflitti. Diventai subito rosso e lo fulminai con lo sguardo. Lui si rese conto solo un attimo dopo aver pronunciato quella frase del doppio senso e un leggero sorriso di compiacimento gli illuminò il volto. Per fortuna la signora non colse e secondo me neanche il marito. Ripresi in mano prontamente la situazione, feci vedere la cartella colori ai clienti e dissi che li avrei richiamati dopo, quando avrei preparato qualche campione. Tornai nella stanza del velino dove c'era ancora mio padre e lo guardai in segno di rimprovero. Gli dissi solamente «Ma papà!» e allargai le braccia mezzo serio e un poco sorridente. Lui si voltò soddisfatto e mi disse: «Cosa c'è? Ho detto quello che pensavo!» e trotterellando sulle gambe bianche rientrò nel suo regno. Been 40 days since I don't know where. Il papà di Enzo era un falegname e, da come lui lo descrive, sembra un pezzo di legno ben tornito. Non un armadietto, nemmeno la cornice di uno specchio. Non sembra un comodino o una sedia. Piuttosto sembra descriverlo come una solida gamba di un grosso tavolo. Un pezzo intero, ruvido ma rassicurante. Senza spigoli, ma duro. Una cosa contro cui è meglio non batterci la testa, ma che non è infida. Non ha angoli nascosti che ti possono far male. È quello che è, e contiene se stesso. È proprio tutto d'un pezzo. E allora ho pensato che le persone possono essere descritte un po' dai lavori che fanno o delle passioni che hanno. Che poi, se è gente fortunata, le due cose si sovrappongono. Perché quello che credo è che un mestiere si possa imparare, ma che sia poi quel mestiere lì a insegnarti qualcosa. Che siano il lavoro che fai e la sua quotidianità a renderti un po' quello che sei. Non ti potrà cambiare, questo è certo, ma potrà contribuire a forgiarti come persona. E quindi, secondo questa teoria, forse, dico forse no, il pescatore, che se ne va al largo all'alba magari su un gozzo e deve riparare le reti, affrontare il mare, sicuramente sarà uno capace di stare in equilibrio sulla vita, proprio come fa sulla barca. Capirà dove appoggiarsi e come restare in piedi mentre tutto attorno si muove. Forse. L'astronomo forse guarderà le cose con più distacco rispetto agli altri, perché è abituato a vederle dal basso verso l'alto, da lontano, immaginando più che osservando, e saprà che non è sempre tutto come sembra. Il chirurgo forse sezionerà la vita come fa con i corpi che cura, la farà a pezzettini con grande meticolosità e precisione, senza concedersi margini di errore. E forse saprà affrontare ogni singolo problema alla perfezione, ma magari farà fatica a vedere il quadro complessivo, forse. L'arbitro, forse, di qualsiasi sport si sentirà sempre un po' fuori dal gioco, un po' come il giudice. Deve osservare le cose che accadono e decidere quali vanno sanzionate secondo le regole comuni. E non parteciperà mai all'azione, allo sport che dirige, perché non può permetterselo. E questo lo allontanerà un poco dalla sostanza delle cose. Forse l'insegnante cercherà nei libri il senso di ciò che vede e che vive. Forse il prete, se vogliamo considerarlo un mestiere, è costretto ad ascoltare tutto senza mai giudicare, ma regalando assoluzione nel confessionale. Inviterà al pentimento, ma non avrà modo di sapere se sia sincero o formale. Tanto non toccherà a lui decidere. Sarà sempre una grande spalla su cui poggiare la testa, forse. La modella forse dovunque andrà e in qualsiasi momento della propria vita si sentirà sempre osservata. Avrà gli occhi addosso e se anche non sarà così, a lei comunque sembrerà così. Il contabile forse saprà calcolare i pro e i contro di ogni situazione, di ogni relazione, di ogni investimento affettivo. Calcolerà anche i sentimenti, quanti elargirne e quanti ne potranno tornare indietro. Lo scrittore forse inventerà cose che non esistono. Se vede qualcuno che corre per strada, si immaginerà il motivo per cui lo sta facendo. E poi un altro motivo, e poi un altro, e così via. E poi il conduttore radiofonico, forse. Forse il conduttore radiofonico parlerà e parlerà e parlerà in continuazione. E dirà o cose molto razionali o cose molto istintive. E sarà sincero o mentirà. Ma continuerà a farlo, anche se nessuno lo ascolterà più. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Sono una contabile da 30 anni, ho imparato ad essere più ordinata e lavorare con metodo. Sono una bibliotecaria e ho la mania di classificare, ordinare alfabeticamente persino i bicchieri dei bambini alle feste di compleanno. Elena, sono un programmatore e il mio lavoro mi ha insegnato ad essere logico. E aggiunge, troppo logico. 349-238-6666. Il lavoro che fate in qualche modo vi segna, anche semplicemente perché lo frequentate tutto il giorno. Quante sono le cose che frequentate tutto il giorno? Facebook forse. Forse Facebook. Però la seconda cosa che frequentate di più è sicuramente il vostro lavoro. Quindi in qualche modo vi segna. È successa più o meno la stessa cosa per il papà di Enzo, che immagino però non frequentasse Facebook. Pronto Enzo? Pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene, bene. Grazie mille per essere qui e per il tuo racconto. Grazie a te. Dove ti trovi esattamente, Enzo? Sei in bottega? Ma mi sono preso un'ora di permesso e sono venuto a casa con la famiglia per questo evento. Te la sei presa da te stesso il permesso? Cioè... Sì, ho chiesto il permesso ai miei ragazzi e mi hanno detto che tutti erano collegati ad ascoltare. Sì. Senti, mi dici esattamente che tipo di lavoro fai? Cioè, è solo una falegnameria semplice o fate di più? No, noi siamo la vecchia falegnameria di paese e adesso siamo più sui serramenti, ma una volta si faceva di tutto, dalle barche del lago fino alle casse da morto. Proprio legno. Legno. Ma tu dicevi, scusami, che la tua famiglia è dal 1700, che è nel tuo paese, che paese è, scusami? Sì, Borgo Angeli di Mantova. Quanto dista la Mantova? 2 chilometri. Ah beh, insomma, è lì attaccato. Sì. E però l'attività da quanto esiste? Da 93 anni. È stato tuo padre o tuo nonno? Tuo nonno? Mio nonno. Tuo nonno. E come si chiama la falegnameria? Falegnameria Formizzi. Molto semplicemente. Formizzi. E quante persone ci lavorano? In 5 siamo. Ma e sono tu... come si comincia a fare il falegname? Vabbè, tu ce l'hai di famiglia e quindi immagino, no, tuo papà l'ha imparato dal suo papà e tu l'hai imparato dal tuo. Però ci sono dei ragazzi che arrivano e dicono salve, cerco lavoro, non sanno fare niente e cominciano da zero? Ci sono che vengono, sì. Ed è una cosa che si impara solo facendola oppure c'è un metodo, c'è un approccio? No, solo facendola. Io adesso ho 35 anni che lo faccio, ma ogni giorno c'è qualcosa di nuovo che non mi aspettavo. Senti, mi pronunci esattamente nel tuo dialetto Siora Leach Piascal Maron Clan Mesai du Maron? Sì, è stata così, è esploso come veramente come una bomba e ha detto Siora fa Leach Piascal Maron Clan Mesai du Maron. Quanti anni fa erano? Ero poco che ero lì, quindi sarà stato un 25 anni. Senti, invece a te il lavoro che cosa ha insegnato, Enzo? Cioè cosa hai imparato dal tuo mestiere? Ma io mi sono scritto diverse frasi importanti che mio papà diceva, così tra le righe. Una importante era quella, te la dico in italiano. Dimmelo in italiano, sì è meglio, guarda, sennò... Tu taci, ci pensano gli altri a raccontarti tutto. Questa è perfetta per il mio lavoro, guarda Enzo, ti ringrazio per avermela detta perché seguendo questa frase in sostanza dovrei chiudere qui e lasciare raccontare agli altri, che più o meno è quello che mi piacerebbe in qualche modo riuscire a fare. Enzo, senti, io purtroppo ti devo salutare, però ti ringrazio. Scusa, un'ultima cosa, hai detto che hai un maschio e 3 figlie? Sì. Quindi avete 4 figli in casa? 4 figli. Che è una roba proprio da borgo del 1700 ormai, cioè siete in pochissimi rimasti ad avere 4 figli. Per noi è... Era importante avere... Qualcuno va avanti l'attività? Ancora no. Però è presto, no? Ancora presto. Va bene. Ti faccio un sacco di auguri, Enzo. Grazie mille. Grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao. Grazie. Antonio, da capostazione in Ferrovie dello Stato, ho imparato la puntualità. Ma dai! Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Enzo è con la sua famiglia, con sua moglie e con dei suoi 4 figli, quindi mancano un'altra bambina e il ragazzo, che di fatto è l'unico che potrebbe... Beh, non è vero, però ci può essere una donna falegname, perché no? Sono in una foto tipicamente turistica, anche dai giubbottini antipioggia che hanno addosso, si capisce. Sono i giubbottini che si mette solo quando si va in gita, nella vita normale mai. Alle spalle hanno un fiume e una città. È partita una bagarre in redazione, non si capisce dove siano in questa fotografia. Se avete un computer fra le mani, vi prego, andate sulla pagina di Voi Siete Qui, radio24.it, e sono aperte le scommesse. Io credo sia in Inghilterra. Enzo, se sei all'ascolto, 349-238-6666. Potrebbe essere Londra, però potrebbe essere anche tipo Newcastle, perché c'è un ponte che sembra il Millennium Bridge. Il cielo è tipicamente Nord Europa. Tant'è, se la riconoscete, la foto è sul sito, alla pagina di Voi Siete Qui. Se no, 349-238-6666. Sono un'educatrice. Il mio lavoro mi ha insegnato a non sottovalutare mai le capacità dei bambini, per quanto ad un adulto sembrino sempre troppo piccole. Grace. E poi ancora, ciao Matteo, Silvia dal Friuli. Sono un assistente alla poltrona del dentista e tu prova a dirmi di non guardare i denti di chi mi sta di fronte. Guarda Silvia, giuro che non ci provo neanche. Da psico... mot elettricista, ho imparato quanto è bello continuare a giocare. Teresa. E poi ancora uno che fa l'architetto: la superficialità di molti mi ha insegnato ad essere meno perfezionista. 349 238 6666. È divertente questa cosa, che cioè è divertente, mi incuriosisce il fatto che una persona come Enzo, che fa un lavoro che è il lavoro materiale per antonomasia, no? Quando pensi a un lavoro in cui devi far andare le mani, devi fare delle cose, pensi al falegname o pensi al muratore, però quella roba lì, no? Gente che lavora la materia, e mi riempie di gioia pensare che una sera si è messo lì e ha scritto una storia e l'ha inviata. Fatelo anche voi, voi siete qui, @radio24.it. Una persona che fa un lavoro molto particolare invece, proprio che non ha nulla a che fare con il falegname e con la materia, si chiama Marianna. Mi ha mandato una mail in cui mi racconta il lavoro che fa e la qualità che le ha insegnato. Caro Matteo, non ti ho mai scritto e lo faccio solo per un motivo ben preciso, perché ho letto quello di cui si parla oggi nella tua trasmissione, e cioè di come il nostro lavoro ci forgia e crea chi siamo. Io ho fatto pochi lavori nella mia vita, non sono di quelle persone che hanno un curriculum esorbitante. Ho fatto la cameriera, la commessa e un po' la modella, ma nulla di che, niente sfilate o copertine di riviste. Lavoravo in uno showroom. Lì ho incontrato una signora che lavorava in un casinò e che mi ha chiesto se volevo provare a fare un lavoro particolare, per cui ci voleva bella presenza, ma soprattutto buona memoria. Da quel giorno, e sono passati 5 anni, io faccio la fisionomista in un casinò al confine dell'Italia. Il fisionomista è un lavoro talmente particolare che non sapevo cosa fosse e molte persone ne ignorano l'esistenza. Quello che faccio è molto semplice. Io mi aggiro ben vestita per le sale del casinò, fingendo di giocare o di passare una serata come le altre. In realtà il mio compito è quello di riconoscere le facce delle persone che giocano ai tavoli. Devi sapere che il mondo del gioco è pieno di persone che cercano di truffare per vincere dei soldi. Sono i bari. Sì, i bari esistono e sono tra noi, soprattutto ai tavoli da gioco. Attualmente dalle nostre parti ne girano una ventina circa. Io ho una buona memoria fotografica e ho memorizzato le loro facce e i loro movimenti. Quando individuo qualcuno che mi sembra di riconoscere, avviso la sicurezza e quella persona viene messa sotto osservazione. È una vita particolare e mi piace, anche se non so quanto possa realmente durare. Mi sono successe un sacco di cose particolari, come potrei immaginare. Tra tutte, quella di aver riconosciuto una persona che non era un baro, ma era semplicemente il fratello, e che ha chiesto un risarcimento milionario al casinò per lesa maestà. Ma il motivo per cui ti scrivo è raccontarti che cosa mi ha insegnato questo lavoro. Beh, mi ha insegnato sicuramente a memorizzare i visi delle persone, ma soprattutto a capire che non è vero che le persone non sono quello che sembrano. Anzi, se impari a guardarle, le persone rivelano molto più di quello che pensano o che vorrebbero rivelare. Spero di non vederti mai in una sala da gioco, Marianna. Mi occupo di comunicazione e ho imparato a negoziare con l'interlocutrice più tosta, mia figlia Leonardo. E poi ancora, professore universitario, 20 anni di lezioni, 150 presentazioni e conferenze mi sono serviti a vincere la timidezza, Luca da Perugia. Io ho mantenuto come per magia una giovinezza fisica e interiore lavorando con tante adolescenti energiche, Serena, insegnante di hip hop. Ah, di danza hip hop, perdonatemi. Sono un tecnico, ho imparato a essere metodico. Sono un formatore, ho imparato ad ascoltare. Sono un investigatore privato, ho imparato ad essere paziente. Perché certo, Daniele, perché noi ci immaginiamo l'investigatore privato, sai come? Chiuso in macchina, con un panino e una Coca-Cola dietro il volante, ad aspettare che qualcuno esca e scattare delle foto. Ti prego, dimmi che è così, Daniele. Dimmi che fate ancora così, altrimenti ci rimango malissimo. Cominciare a fare il vignaiolo a 40 anni mi ha insegnato a modulare la vita al ritmo delle stagioni. Francesco, mi scrive un PS nell'SMS. PS, ci vediamo lunedì. Ci vediamo lunedì con Fili, con Franco. Ci sentiamo lunedì con tutti gli altri. Noi siamo insieme a tutta Radio 24 al Vinitaly a Verona. Siamo allo stand numero 3, al padiglione 3C, al padiglione numero 3. Siamo lì e il grande esperimento porta un astemio al Vinitaly. Comincia esattamente lunedì alle ore 16. Grazie a Stefano D'Andrea, a Paolino Corleoni, a Margherita Ina e a Tiziano Bonini. La storia di oggi era la storia di Enzo e parlava di come il nostro mestiere ci forgia. Quella di lunedì è la storia di Mauro e parla di allievi e professoresse. L'indomani a scuola, pur non facendo nulla di eclatante, sono circondato da un'aura che mi illumina. Probabilmente le sue alunne hanno cominciato ad annusare una tresca tra me e la loro professoressa. E io, da maschio imbecille, sono convinto di dissuaderle. E invece non faccio che confermarglielo.